Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno. Alcuni giorni fa sulla posta elettronica della nostra trasmissione sottotiro@radio24.it è arrivata la segnalazione di una bellissima iniziativa, di un percorso di legalità compiuto dall'Istituto Professionale Einaudi di Grosseto. E noi oggi di questo, insieme alla professoressa Laura Ciampini e ad un'alunna, parleremo. Buongiorno professoressa Ciampini. Buongiorno. Allora, perché avete deciso di percorrere questa strada della legalità nel vostro istituto professionale? L'Istituto Professionale Einaudi di Grosseto già da 2 anni ha attivato un percorso di legalità aderendo a un progetto promosso dalla Fondazione Antonino Caponnetto di Firenze. Abbiamo cercato di lavorare insieme ai ragazzi per vedere quali siano i fenomeni di infiltrazione mafiosi in Toscana e nella nostra zona, la Maremma. Ecco, ma è vero che voi vi divertite anche ad ascoltare le nostre puntate registrate? Sì, sì, perché soprattutto in una delle classi che abbiamo montato la LIM, la lavagna interattiva multimediale, utilizziamo questo strumento per collegarci ai siti internet e poter riascoltare durante le nostre lezioni le puntate e tutte quelle iniziative che diciamo si occupano della lotta alla mafia. Ecco, ma lei che ha questo osservatorio, che cerca questo osservatorio privilegiato anche con i media, e questa è un'operazione straordinaria che voi fate, quanti sono i media che si occupano? Cioè, quali sono quelli che voi scaricate, ascoltate e vedete? È una curiosità legittima, credo. Sì, noi oltre alla vostra radio abbiamo cercato di metterci in contatto anche con altre web radio, ad esempio Creativa. Siamo in contatto con anche emittenti televisive con cui abbiamo un progetto di fare delle videoconferenze per realizzare anche noi un nostro servizio radiofonico e anche un nostro servizio televisivo. Bene. Tra questi emittenti c'è Teleiato, diretta da Pino Maniaci. Certo, che è stato spesso nostro ospite. Professoressa sì. Ciampini, ma quali sono le reazioni dei suoi alunni? Seguono con interesse oppure un interesse di facciata, perché tanto a scuola bisogna andarci e quindi uffa che palle, seguiamola sta professoressa? L'interesse c'è, evidentemente i giovani devono essere stimolati, però hanno reagito con grande passione, perché soprattutto col progetto dell'anno scorso che rievocava e abbiamo cercato di analizzare i fatti accaduti ad Arrosarno, abbiamo anche cercato di capire qualcosa in più sull'immigrazione. Siamo venuti in contatto con la comunità senegalese di Grosseto e abbiamo con loro verificato molte delle problematiche che ci sono nella vita quotidiana. Ecco, quindi diciamo così che seguite anche la cronaca dei fatti per parlare di temi di legalità all'interno delle vostre classi. Sì, questo lo facciamo sempre. Da una parte cerchiamo di rievocare le grandi figure del passato che hanno dato il loro contributo alla lotta alla mafia. Abbiamo affrontato l'analisi di Padre Puglisi e Peppino Impastato, però allo stesso tempo anche l'analisi della mafia del nostro anno che ci troviamo a vivere, della nostra vita quotidiana. Anche perché poi la Fondazione Caponnetto ogni anno tira fuori anche una relazione che aggiorna sullo stato di presenza mafiosa nel vostro territorio. Esattamente, esattamente. E i ragazzi si sono appassionati alla denuncia di questo fenomeno anche attraverso il linguaggio della musica. E questo, diciamo, è un canale che li avvicina di più a questo tipo di indagine. Assolutamente, non a caso noi molto spesso abbiamo proprio ospiti, ragazzi che della musica fanno non tanto una ragione di vita quanto una ragione di denuncia nei confronti della mafia. Professoressa Ciampini, grazie per il suo intervento. Ora andremo ad ascoltare una sua alunna che con lei ha condiviso l'esperienza. Grazie e buona giornata. Arrivederci. Grazie, buongiorno. Arrivederci. Bene, dopo aver ascoltato la professoressa Ciampini andiamo appunto a sentire l'esperienza di una sua alunna, Giulia Frecentese, della classe quinta A dell'Istituto Professionale Luigi Einaudi. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Allora, cosa ti è rimasta, cosa ti sta rimanendo di questa esperienza, di questo percorso di legalità che stai compiendo con la professoressa Ciampini e con l'Istituto Tutto? Allora, questa esperienza è stata un'esperienza molto positiva, anche perché noi ragazzi l'abbiamo vissuta in prima persona, abbiamo fatto vari incontri, tra cui con il sindaco di Cavorrano, rappresentanti della cooperativa Goanna, e tra l'altro abbiamo, partecipando al progetto Le Giovani Sentinelle della Legalità, abbiamo realizzato un videoclip che dal titolo Il mio lungo viaggio, e ci tengo a precisare che la canzone è stata fatta da noi ragazzi della scuola, certo, sia musica che parole, con il quale, con il linguaggio del rap, abbiamo cercato di denunciare lo sfruttamento mafioso del lavoro dei clandestini in Italia. Benissimo Giulia, io ti ringrazio per questo, e quindi lasciamo tutti, regia, redazione e ospiti, con alcune note di questa canzone. Buongiorno Giulia. Va bene, grazie. Grazie mille. Ciao. È tutto bello, è tutto così strano. Io cambierò come non sono mai cambiato. Mi lascio dietro il cielo, un passo dal creato. E sembra tutto così bello e vero finché sei lontano.